confini della realtà. Ho trovato una fessura dentro l'ultima oscurità, tra ricordi e monitor spenti, stanze bianche ed ospedali, volti assenti che all'improvviso tornano a parlare a chi sta male. Dicono: come stai? Non piangere, son qua. E da corpi consumati nasce un ultimo papà. C'è chi gioca ancora a carte, chi si alza e vuole danzare. Un saluto che attraversa il tempo prima di andarsene sul mare. Lucidità terminale, ultimo lampo di sole nell'ora più buia del mare. È l'anima che riprende il corpo per poterti salutare. Non lo spiega il manuale, né un tracciato neurale. Forse è solo l'amore che fa breccia nel male, ti viene a cercare. Lucidità terminale, lucidità terminale. Dicono è solo illusione, psicologia del dolore. Ma io vedo infermieri e dottori commuoversi col cuore. Cervelli ormai distrutti che non potrebbero parlare, eppure chiamano per nome è venuto a trovare. È come un varco aperto tra due mondi in collisione, la metafisica che bussa alle porte della ragione. La scienza misura il cuore, ma non sa misurarla Dio. Quando un vecchio stringe una mano e sembra dirti: torno anch'io. Lampo di sole nell'ora più buia del mare. È l'anima che riprende il corpo per poterti abbracciare. Non lo spiega il manuale, né un tracciato neurale. Forse è solo l'amore che fa breccia nel male, ti viene a cercare. Lucidità terminale, metti da parte l'encefalo rotto, le mappe, la chimica fredda. Qui c'è un io che si affaccia dal fondo e la logica un po' se la scorda. Se il fine è soltanto dirti ti amo un'ultima fragile volta. Forse l'amore è la legge profonda che la materia non racconta. È una scolastica della cura, dogmi di carne non di paura, dove il placebo è l'abbraccio che dura anche quando il corpo va giù. E allora addio materialismo, padre rigido del mio pensiero, che pretende di spiegare il mondo ma ha paura del mistero. Se il male è solo non essere, un vuoto che vuole spezzarci, io cerco un'etica dell'essere che aiuti a ricominciare ad amarci. Forse la chiave nel passato, nei colori del rinascimento, quando l'uomo guardava il cielo senza sentirsi un frammento. Tra Firenze e una corsia di notte passa il filo del futuro, riportare al centro il cuore e non soltanto ciò che è sicuro. Lucidità terminale, quando il silenzio si apre e qualcuno ti viene a chiamare. Forse è l'essere che irrompe oltre il limite del pensare. Non lo spiega il manuale, né un tracciato neurale. Ma se l'amore ti guida oltre il buio e il male, forse non finisce qua, forse è un altro Natale. E se poi mi dirai ciarlatano, io sorrido e ti tendo la mano. Lasciamo ai morti il pensiero di pietra, torniamo a credere alla luce che arretra il buio almeno un istante, che sia filosofia o preghiera. Lucidità terminale, frontiera. andare via.